C. Ascolta e controlla. 1. Cristoforo Colombo scoprì l'America nel 1492. Dopo che i conquistatori furono tornati in patria, la gente conobbe nuove specie di piante e di animali. 2. Nel 1889 il re Umberto I con la regina Margherita andò a Napoli per le vacanze estive e rimase per molti giorni nella reggia di Capodimonte. La regina desiderava sapere di più sulla pizza e chiamò a corte il pizzaiolo Don Raffaele Esposito con la moglie Donna Rosa della pizzeria Pietro il Pizzaiolo. Donna Rosa e Don Raffaele prepararono pizze con diversi ingredienti, ma quella con mozzarella, pomodoro e basilico, cioè con i colori della bandiera italiana, piacque molto alla regina Margherita, e non solo per motivi patriottici. Don Raffaele chiamò questa pizza alla Margherita e il giorno dopo la mise nel menù del suo locale e ricevette moltissime ordinazioni.